spesso non avevo avuto problemi col condominio, grazie a Dio, ma lo scorrario. E vabbè, bei tempi. Allora sì, c'era divertimento, poi mangiavamo coniglio, bevevamo champagne. Prima andavamo a piedi con le macchine. Ragazzacci, facevamo il mattino, vabbè, comunque, è un'altra storia quella. Sì, quello sì, mamma ci sciogliva. Spegnevo la radio alle 5, sì, il mattino alle 7, stavo 7 e mezza, stavo già uscendo per andare a lavorare. Infatti una volta sono arrivato a casa e non aveva più il baracchino, ogni tanto voleva c'è il baracchino. Radio Bovardo, a manco del riposo, un po' garetto, ti sciuga, vai giù. Sei quattrato, te l'avevo. vabbè, tu vai con il ragazzino per forza, è ovvio. E quante ragazze, perché che magari abbandonavo anche lo studio per modulare, figurati, tu ya, ya se ne sono sentite di queste storie, tantissime veramente, ma era una lotta continua tutti i giorni, pure a dire non era che solamente la sera, un'oretta, due ore per dire, no, era dalla mattina presto, tutti i santissimi giorni su tutti i canali, era pieno zeppo, invaso di persone che parlavano, oltre al fatto che parlavano anche le donne, soprattutto tante signore sposate si chiamavano fra di loro e chiacchieravano, pettegolavano per così dire, tra virgolette, al baracchino, già lo sappiamo come funzionava allora, oggi invece è tranquillo, è assuria, no, non ne abbiamo più di questi problemi, soprattutto non si fanno più, non ci sono più questi comportamenti così come allora. Vai Tino. Sì, no, vabbè, poi ricorderete benissimo anche a Chaplinese, che lui quando smetteva di parlare era una professoressa, era proprio. Poi per temporeggiare, se non c'è nessuno, già ce l'ha Paoletto. Un'altra mascotte. No, Giulio, non ero ragazzino, no? Io già per 16 anni lavoravo e studiavo, e quando mi hanno ascoltato il baracchino ero in tempo di geometri, quindi no, non ero ragazzino, avevo 19 anni. Perciò, anzi sì, no, forse non c'avevo neanche 18, forse dovevo fare 19. Avevo già finito a militare tutto, quindi era capito, era sempre uscito. E ancora oggi non è che c'è 89, 88 anni, 89 ne fa, ma è sempre padre padrone, no? Venuto, vabbè, tenendo conto che noi abbiamo perso nostro padre, eravamo tutti piccoli, avevo 3 mesi, quindi lui ci ha fatto grandi mettendosi i pantaloni. Perciò ha avuto sempre grande polso, sia con i maschi che con le femmine. A me mi invadì di tutti i colori, perché io ero un po' vicino bisogno, capite? Quindi, siccome non riusciva mai a darmi qualche colpo, allora mi puniva, o mi nascondeva le chiavi della moto, della macchina, o, capite? Mi invadì di tutti i colori. E il giorno sono tornato a casa, dopo il lavoro, sono andato a cena al baracchino per abbiversi veramente a loro. E non me ne eratto, Me l'ha rimesso l'indomani quando sono andato a scuola. Quando sono uscito ha rimesso il baracchino sopra la scrivania, perché poi sapeva come si staccava, come hai capito, tutti noi, anche perché lui era dell'Aeronautico. Io mi sono appassionato proprio della radio conoscendo il professor Maresio, che era il professore di telecomunicazioni aeronautico, capito? Io andavo con lei all'aeronautico, a volte c'aveva niente da io. Ecco, ora mi vengo un paio di anni che c'è il professor Maresio che c'ha lezioni oggi così di appassioni. E mi sono appassionato lì. Nell'ottico c'è anche la sigla da radioamatore, ISR0 MTN. Capito? O ITN mi sembra, istituto tecnico nautico. ITN forse, ISR0 ITN. Vai Giulio, riprendi. Ok, altri tempi, guarda che io devo essere sincero, non posso rimpiangere niente dell'educazione che ho avuto dai miei genitori, perché le persone di quell'era lì erano più o meno della stessa idea, tutti quanti all'incirca allo stesso modo educavano i figli, e devo dire che tutte quelle persone hanno sempre filato liscio, senza, salvo qualche mosca bianca, è ovvio. Ma oggi è diventata veramente una schifezza, perché oggi i figli non danno retta ai genitori, non ne frega niente. Rientra presto la notte e arrivano alle 4 del mattino, per dire, no? Tutte queste cose qua allora non succedevano, perlomeno a casa mia. Tu pensa, siamo 7 figli e nessuno di noi ha avuto niente da rimproverare ai miei genitori, proprio per il semplice fatto che abbiamo avuto tutti quanti un'educazione esemplare, proprio nella maniera più sincera, onesta. Non ci ha privato di niente, non ci mancava mai niente, questo sì è vero, però troppa libertà non trainava noi. A me, io mi ricordo all'età di 27-28 anni, ho detto: sto uscendo, mamma, sto uscendo, e babbo, rientra presto, già rientro presto, ma guarda che presto, significa le 10, magari io tardavo, non ci arrivavo mai alle 10, ci arrivavo, che so io, alle 10 e mezza, tante volte, qualche volta anche alle 11, e se non c'era per dire babbo, detto, allora c'era mamma che ci vuole, ma dimmi una cosa, te tuo padre non ti ha detto che doveva rientrare alle 10? E guarda l'orologio, che adesso, per dirti, no, come non te ne passava una liscia, o Claudio, non te ne passava una liscia. E tutta questa educazione senza mai aver ricevuto un colpo, e mai si sono permessi di picchiare né a me né ai miei fratelli. Vai Pino. Oggi non è così, però oggi è totalmente diversa la cosa. Tant'è vero che l'educazione che abbiamo avuto noi non riusciamo a darla ai nostri figli, perché noi siamo più svegli, credo, più portate alla tecnologia, che portate alle cose, insomma, non riusciamo a guidarli come i nostri genitori hanno guidato a noi. Il fatto è che siamo più espansivi noi, anche come genitori, siamo più espansivi noi. Adesso io ho la figlia grande, praticamente, ho 47 anni, per cui ho una donna grande, e poi anche una professionista, è autonoma tranquillamente, non c'è problema. Ma se lei deve uscire per dire rientrare, che so io, perché magari è andata a vedere un film che è finito tardi, cosa faccio? Le dico: come mai sei rientrato a quest'ora? Allora non lo posso dire, se ci mancherebbe altro, non lo posso dire, perché? Perché la vita di oggi è così, è tutto un altro genere. Nonostante che io ho seguito le orme dei miei genitori, che li ho poi utilizzati per l'educazione di mia figlia, il discorso è questo. Vai Claudio. E non funziona così, però no, io lo penso diversamente. Mia figlia ha 35 anni, o Giulia, non è una ragazzina, è un'imprenditrice, c'è la sua attività, è autonoma, non ci sono problemi. Però ti giuro che quando esce pochissimo, perché ha un lavoro troppo impegnativo, però quando esce a me mi dice dove non è, con chi è, e mi dice anche: non faccio tardi, tranquillo, se faccio tardi ti chiamo. Ed è sempre così, non è una di quelle ragazze che stai lì a aspettare, ma dove non è, vuoi uscita, non sai, no, io so tutto di mia figlia, assolutamente, funziona così. Abbiamo questo tipo di rapporto perché ci deve essere, non è perché sei maggiorenne, sei arrivati due, pensi di fare quello che vuoi, no, funziona così. I genitori purtroppo stanno in ansia, stanno preoccupati, sai, esci in macchina, stai andando per dire a mangiare una pizza al Alghero con le tue amiche, con i colleghi di lavoro, io devo saperlo, non è che... Capito? E a me mi dà anche gli orari, se mi dice che all'una è a casa, alle due è a casa, è così, se mi dice che a mezzanotte è così, non c'è niente da fare. Se poi tarda, che magari c'è qualche intoppo, la festa si allunga, insomma, la baldoria è baldoria, allora mi chiama, mi dice: papà, tranquillo, guarda che tardo di un'ora, state tranquilli. e purtroppo io gli ho insegnato questo, poi lui l'ha capito e tutti devono essere così, non è che te ne era tutti baiti. Sì, sì, vabbè, quello sì, anche io non è che, che gli lascio il rubinetto aperto, per carità, nel senso che anche lui ha un orario, giustamente, anche noi siamo stati 15 anni, 16 anni, quindi io per dire, non so se tu ti ricordi, quando a quell'età andavo, chiudevo il bar con mio padre a mezzanotte e poi facevo un'altra mezz'ora con gli amici e rientravo a mezzanotte e mezza, l'una a casa, non è che, intanto alle 11 dovevo andare a dare una mano a chiudere il bar, così almeno era la scusa che insomma anche loro mi vedevano, capito? Sì, beh sì, lo sai, io con te ho vissuto la giovinezza, diciamo, perché ne abbiamo fatto, siamo stati assieme, cosa facevamo? Niente, quando ci vedevamo stavamo lì nella piazzetta, facevamo il trenino, due fesserie, due cazzate, sì, vabbè, uscivamo, facevamo, ma niente di che, però sai, noi avendo già un'educazione, perché conoscendo Battianino non è che era oppresso Spirito Santo, quindi si teneva molto sotto controllo, così era mamma, ma ci sono genitori, ma voi pensate una cosa, mia figlia al bar in Piazza d'Italia, cioè voi dovete vedere il sabato sera, non dico mai di questo periodo poco, perché già di Calfredo si intanano nelle cantine, ma d'estate fino alle 3, alle 4 del mattino, questi ragazzini di 16 anni, 15 anni, 14 anni, 14 anni, a birra in mano, ad alcol in mano e a sigaretta in mano, buttati per la strada, cazzo, ma genitori non ne ha questa gente. Vai Giulio. Infatti è quello che mi chiedo io, no? Come mai questi genitori di oggi non riescono a tenere a freno questi figli di oggi sono veramente, guarda, una vergogna, è uno scandalo veramente vedere questi ragazzi così per strada con la bottiglia della birra in mano, una cosa, guarda, e non solo la bottiglia, anche alcolici pesanti tra l'altro. Sì, ma è così, in effetti è così. Mia figlia addirittura quando che sto uscendo e rientro a tale ora, mi dice, no, se per caso dovesse averci qualche problema poi nel rientro, perché lì lo sai, essendo una professionista fa delle riunioni anche di lavoro un po' dappertutto, o perché va in giro per tutta la Sardegna, può essere magari in un comune, può essere al comune di Umbria, può essere al comune addirittura di Cagliari o di Tempio o di qualsiasi posto. Tu lo sai, quando fanno le riunioni i politici, soprattutto lei che partecipa, perché c'è bisogno della sua presenza anche, allora se vede che le cose si stanno allungando subito ti manda un messaggio o ti manda una telefonata e dice, guarda che sono così ancora lì, e tra un po' poi quando inizia a mettersi in macchina, guarda che mi sto mettendo in macchina adesso, più o meno rientrerò fra tre quarti d'ora, tanto per fare l'esempio, a secondo di quanti chilometri deve percorrere, è così. Oppure quando esce ad esempio oggi come oggi, anche di giorno, quando esce dall'ufficio per dire no, perché lavora a Usilo, lavora al comune di Usilo, cioè, guarda che dopo l'orario del comune devo andare a fare un rilievo, devo andare a fare una riunione con lo, che so io, con lo sindaco, con la giunta comunale di un comune, eccetera, eccetera. E ti avvisa così, metro per metro, che lei percorre, noi lo sappiamo dov'è, dove non è a che punto è e quando rientra, tutte queste belle cose qua, per cui non è a conto suo, nonostante che è una donna grande, o Claudio, nonostante che è una donna grande, che potrebbe fare anche di testa sua, no? Però sa benissimo, i miei genitori magari possono rimanere preoccupati sapendo che io non sono ancora rientrato, allora lì sistematicamente anche durante i convegni che fa, eccetera, no? Nel corso delle riunioni, eccetera, ti manda uno scritto sul telefonino, sono ancora in dibattito qua, eccetera, eccetera. Così funziona, con lei funziona così. Vai Tino. Sì, vabbè, dai. Giustamente, come hai toccato, un genitore non è preoccupato, quindi è meglio che sappia insomma dove va il figlio o la figlia, tra virgolette. Adesso ancora io sono così, perché non è automunito, non è motorizzato, quindi sono io che lo devo portare in centro oppure alla Pedrosa, per le Siltrane e così via. Poi giustamente mi chiama e dice: ma vieni a prendermi che sono qua. E lì tocca a me mettere in moto e andare a prenderlo. Quindi ancora per il momento già è in zona, gira in zona. Va bene signore, mi devo portare un attimino, devo andare in cucina Capicurino, che ho da aspettare per darvi la notizia. Vai Tino, siamo qua. Ok, d'accordo Tino, siamo qua, dai, ancora un po', adesso sarò molto rientra intanto, che è andata a fare delle spese, è andata, adesso sarò molto rientra, per cui non so, forse una decina di minuti penso che sarà qua. Funziona in questa maniera, tutto questo perché è stata educata in una certa maniera, e io non è che abbia fatto miracoli, sia ben chiaro, perché io non ho fatto altro che seguire lo stesso sistema, la stessa educazione che ho ricevuto io, l'ho girata lì, per cui è così mia moglie, lo stesso discorso, perché abbiamo un'intesa spettacolare tra me e mia moglie, non c'è problema, figurati. Basta pensare che abbiamo noi già compiuto le nostre loro, noi abbiamo compiuto i 50 anni già da un paio di mesi fa, da agosto, diciamo, per cui se non fossimo stati d'accordo non saremmo rimasti 50 anni insieme, no? E stiamo continuando fino alla morte, Claudio. Sì, lo ferma, è così, miracoli non ne ha fatto nessuno, però abbiamo avuto un'educazione molto, perlomeno, molto rigida, nel senso rigida, ma non nel senso cattivo, rigida nel senso quello giusto, perché ci vuole assolutamente. Mia figlia aveva, a 16 anni aveva già il motorino per andare a scuola, non gli ho mai fatto mancare niente, a 18 anni ha preso la patente, a 19 anni gli ho comprato la macchina, quindi non è mai stata dietro di nessuno, si è sempre comportata e mi ha dato sempre e mi sta continuando a dare dei grandi risultati, quindi non mi posso lamentare. Non ho mai frequentato gente cattiva, ha frequentato gente alla sua altezza, nei ricchi, nei poveri, gente che c'ha la testa sul collo, tutto qua. E oggi sono contentissimo per l'età che ha una grande forza, una grande voglia di lavorare, perché lavorava e studiava come me ed è arrivata al suo obiettivo raggiunto già da qualche anno, quindi sono contentissimo, io ne ho una e non è che mi posso lamentare. Ne avrei avuto due, avrei avuto il maschio e la femmina oggi. Marco avrebbe avuto 26 anni, però purtroppo mia moglie l'ha perso, non è andato bene, quindi pazienza. Però ti dico che non mi posso lamentare, non ho più assoluto. Mamma ha avuto un grande carattere, una grande forza, noi avevamo 5 figli, mio padre è venuto a mancare che eravamo tutti piccoli, la più grande aveva 9 anni, quindi è chiaro che avevamo le spalle molto, molto coperte, perché mio padre nel 60 aveva due officine, due negozi di autoricambi, Torre Busia era dipendente di mio padre, ha continuato pure ad avere gli autoricambi, infatti io ogni volta che andavo e vado anche adesso lì a aspettare i cambi, no? Non pago nulla, prendo quello che voglio, non pago niente, nulla, proprio niente, capito? Perciò però c'era ancora la finire la casa, c'era l'officina che l'aveva ingrandita, c'erano un sacco di cose, mia madre veramente ha fatto tanto, tanto, tanto, tanto, e ancora è in vita, grazie a Dio, però le cose che aveva le sono rimaste, nel senso che la casa funziona così e uscì di così, non glielo fai cambiare, capito? Assolutamente. Eh beh, certo che sì, sì, capito. E come fai a tu cambiare il carattere, il sistema di vita di una persona di una certa età così? No, non è possibile, non è possibile assolutamente, nemmeno se ti ci metti d'impegno ci riuscirai mai. Capito, mia madre è morta quando? Due anni e mezzo fa, più o meno, là, quasi 3 anni. Capito, aveva 95 anni, dimmi tu, se tu hai una donna di quell'età, gli puoi far cambiare idea? Assolutamente no. Come se ti dovrebbero gridare, nonostante che tu sei per dire sposato e con figli eccetera, ti gridava lo stesso, mi non è che te lo mandava a Dino per dire, anzi ti telefonava per dire ma come stai, ma no, come mai non mi hai telefonato, non mi hai fatto sapere per dire, se ti era gridante ti gridava, premesso che non si metteva mai in mezzo alle cose familiari mie o dei miei fratelli, io non posso mai dire che mia madre si sia mai, né mia madre né mio padre, che si sia mai mischiata nelle cose della mia famiglia, assolutamente. Anzi, se per caso c'era qualcosa da dire, mi diceva e ti gridava anche per dire, no? Guarda che quello che stai facendo è sbagliato, mi te lo diceva senza stare lì a girarci attorno, non è che ci sono certe donne, certe madri che se la prendono contro la moglie, magari è il figlio che è il ribelle e così via, lo sappiamo, no? Lei no, assolutamente, non si mi è mai a dire una sola volta in tanti anni che si sia mischiata nelle cose familiari, né miei e né quelli dei miei fratelli, assolutamente. Ma neanche mamma, no, è che aveva sempre il carattere suo e ce l'ha ancora tutt'oggi, però non si è mai messa insieme nei fatti miei, anche perché io poi ho sempre lavorato, quindi ho sempre portato a casa, ho sempre realizzato le cose mie, non mi è mai mancato niente, perciò mi sono sposato che avevo 25 anni e avevo già la casa pronta, perciò non assolutamente, abbiamo iniziato di mia moglie, siamo usciti in cooperativa dove abitavo prima, quindi nell'87 ci avevamo consegnato la casa. Mi ero sposato anche un anno prima, sono andato a abitare a Serra Longa, figurati. Perciò non si è mai messo in mezzo alle cose mie. Però il carattere è un carattere molto molto rigido, un carattere che non siamo mai riusciti a farglielo cambiare. E tu immaginati che una volta io sono entrato con la sigaretta in bocca a casa di mia madre, finito il militare, con lo zaino a collo, è finita, finalmente, posso riprendere il lavoro, tutto, bimbombà. Mi ha dato un colpo, ha rimasto in colpo la sigaretta e mi ha detto dimmi una cosa, tu hai finito il militare, tutto bene, sono contento, hai fatto la tua esperienza, ma in questa casa nessuno ti ha autorizzato a entrare con la sigaretta in bocca, capito? E me l'ha fatta spegnere, me lo ricordo come oggi, vai Pino. No, io mi ricordavo sempre, allora fumavo anche io, no? Mio padre era con la Barta, ricordo, c'era questo signore che mi ha visto comprare un pacchetto di sigarette, no? Non niente, la notte rientro a casa, mia madre mi ha aspettato, no? Sino a tardi, e mi fa, lo sai però che ti hanno visto, io so proprio già di cosa stava parlando. Ascolta, di cosa stiamo parlando? Tu fumi, vero? Ho detto, ascolta, dille a chi ti ha detto che io fumo, sì è vero che io fumo, però di controllarsi i suoi figli, perché i suoi figli si bucano, io fumo le sigarette. Vedi, cioè, ognuno ce l'ha detto, dico, uno c'ha un vizio alla sigaretta, ok, io l'ho presa purtroppo al lavoro e non me la sono più tolta, però mi sono sempre bilanciato, sempre fatto le cose giuste, ho sempre rispettato le persone, non ho mai fumato in macchina, nei luoghi dove non si può fumare, a casa della gente, a casa mia, esco fuori, capito? Non è un problema quello, ci vuole rispetto per rispetto, però insomma la rigidità dei nostri genitori, dico di mia mamma che cioè, finisco a meditare e arrivo a casa felice e contento in congedo con la sigaretta accesa e tu mi dici nessuno ti ha autorizzato a entrare qua a casa mia, poi attenzione, no, a casa mia, diceva sempre non ti ha autorizzato nessuno a entrare a casa mia con la sigaretta in bocca, quindi fa la cortesia, vai fuori e la spegni. E poi questo discorso l'abbiamo ripreso diverse volte, alla fine insomma ha accettato che io dovevo fumare, fumavo anche a casa, Giulio, ha capito? Sì, beh, è ovvio che prima o poi anche lei si abituava a vederti fumando e chiaramente siccome non era un reato fumare, non era un delitto, per cui ti era permesso, ma se fosse stato un qualcosa di serio sono sicuro che non te l'avrebbe permesso nella maniera più assoluta. No, io la verità non ho mai fumato, non ho mai avuto questo vizio, per cui non ho, né io e nemmeno mio fratello, all'infuori di uno che ha fumato, anche se adesso magari è 25-30 anni che non sta fumando più, per dire, no? Però cosa succedeva, per dire, uscivo io da stabilimento, andavo in palestra e rientravo la notte un pochino ad una certa ora, però lei sapeva che io dovevo rientrare a quell'ora. Quando finivo l'allenamento, telefonavo a casa, ho finito adesso, tra un po' arrivo, va bene, non ti trattenere in giro, per dirti, no, in un certo senso controllato, e questo a me mi faceva anche piacere perché è una garanzia per un figlio che si sente controllato dai genitori, però allo stesso tempo io non gli facevo mancare l'occasione per fargli sapere dove mi trovavo e dove ero, eppure avevo già una certa età, ero già un giovanotto grande che potevo starmene anche in giro dopo, invece no, rimanevo. E allora mi rientra che ti scaldo la cena, per dire, no, capito, claro, queste cose mi aveva permesso di praticare lo sport, che era una cosa normalissima, perché facevo io da stabilimento in palestra, magari rientravo alle 10, 10 e mezzo, alle 11, dipendeva dal tipo di allenamento che dovevo fare, e mia madre questo me l'ha permesso, ma solo esclusivamente perché sapeva che ero in palestra. Vai Tino. Ciò che volevo dire è questo: ti metti a controllare la gente che non ti interessa e non ti guarda i tuoi figli, tra virgolette. No, io lo stesso, quando pure hanno saputo che fumavo, addirittura gli facevo le portate a mio padre, offri una sigaretta, e non da dire nel taschino. Però è raro, glielo facevo apposta, giusto per far capire che anche io sapevo che lui lo sapeva, hai capito? Beh certo, ma è così che deve funzionare, lo so, purtroppo, no, io ripeto, finito quello che dovevo fare, lì c'era il telefono, facevo il numero di casa, perché a casa ce l'abbiamo sempre avuto un telefono, da sempre praticamente, e dunque avvisavo e avvertivo, perché loro sapevano quanti passi mettevo io durante la giornata, no? Questo non ci sono dubbi, anzi quando uscivo per dire a stabilimento e mi sto andando in palestra, va bene, d'accordo, non rientrare tardi, no, dai, il solito avvertimento, oppure quando rientra con la macchina, non correre con la macchina, questi sono sempre i soliti avvertimenti che una madre o un genitore fa, come lo faccio io a mia figlia, quando deve andare fuori saltare con la macchina, non correre, la prima cosa lui dice, vabbè, ciao, stai attenta a non correre. Mi sembra che il minimo che un genitore possa fare, Ocla, vai. Con mia figlia è Pierre Pesante, capito? La figlia c'ha una macchina e cammina, è Pierre Pesante, quindi io molte volte glielo dico, stai tranquillo, sì. E vabbè. Ho detto, ma io ho conosciuto Battianino che ce la fumava qualche sigaretta o no? Sì, no, vabbè, qualche anno fa adesso non sta più fumando perché ha dei problemi, quindi ha eliminato anche quello. Sì, lui fumava, non era un grande fumatore mio padre penso fumava qualche sigaretta al bar, ma raramente, quando c'erano quei momenti buchi che proprio non c'è nessuno, oppure c'era calma e fumava per dire dopo mangiato, no? 3-4 sigarette al giorno, non ti credo che era un grande fumatore. Sì, non lo ricordo, non era un grande fumatore, anche perché io frequentavo lì, quindi lo vedevo. Certo che sì, però mi ricordo che già fumava qualche cicca, già se la pippava. Vabbè. Giulio, è così. Bei tempi, belle cose, io ti ripeto, auguro a chiunque. Io ho avuto grande soddisfazione della mia figlia in tutto e per tutto, non ho mai avuto problemi, non mi posso lamentare, lei ha avuto sempre tutto quello che gli è stato dato, che gli si doveva dare in pratica, però ha fatto tutte le cose in regola e oggi è tranquilla per i fatti suoi, senza nessun problema. Per l'età che ha, penso che non è facile avere una casa, avere un lavoro e avere tutte le responsabilità della vita, io penso così. Eh beh, certo che sì, ma in effetti è così, lo so. No, anche io devo dire che sono abbastanza soddisfatto. L'unica cosa che mi è dispiaciuto è che ne ho perso una figlia, come l'hai persa tu, ne ho perso una, che sarebbe stata addirittura anche più grande, di un anno, due anni più grande di questa che ho adesso. Per dire, oh, ma questa ha messo di fratello, me ne ha dato tantissimo. Intanto devo dire che era entrata in ritardo a scuola, gli elementari era entrata in ritardo, per cui in quel periodo si era malata e è rientrata in ritardo dopo di 4, 5, 6 mesi a scuola, no? Beh, nonostante tutto, dalla prima elementare sino alla laurea non ho mai avuto un anno bocciata, mai. È sempre stata promossa senza ripetere esami e niente, sempre. Sì, e si è laureata con massimo di voti o Claudio. A un certo momento il direttore dell'università gli ha detto, oggi da lei, quando ha fatto la tesi, no? Oggi da lei ho imparato molte cose. Non so se i miei colleghi qua, perché c'erano una serie di professori, no? Quando loro fanno la tesi, non so se i miei colleghi professori qua hanno qualche domanda da farle. Tutti quanti si sono guardati in faccia e sono detto no, niente. Capito? Per dire, perché li ha stupiti tutti quanti, li ha lasciati a bocca aperta, addirittura al direttore dell'Università di Sassari. Vai Tino. Vabbè, aspettiamo tempi migliori anche per me, che possa raccontare anch'io le cose belle sui nostri figli, dai, ancora sono piccoli, quindi grazie a Dio sono educati, tutto quanto, però ancora di scuola di quant'altro non posso parlare. Beh certo che sì, infatti tu sei molto più giovane di me soprattutto, per cui anche perché io sono dell'età di tuo padre, perlomeno siamo più o meno della stessa, tanto è vero, più di una volta ci siamo anche frequentati da ragazzi, da giovani, abitando io a Montorosello, lui altrettanto lì, avendo attività eccetera, più di una volta ci siamo incontrati, ci siamo frequentati, per cui non c'è problema, so benissimo di che età tuo padre e che età puoi avere tu. Avanti Claudio. Si conferma, è proprio così. Io Betty, verrà il tuo momento. No, anche mia figlia si è diplomata al massimo e poi non ha più continuato perché voleva lavorare, come ho fatto io. Ho iniziato da ragazzina anche lì, considera che c'era 35 anni e ha iniziato a 14 anni a lavorare. Lavorava sempre in questo settore, settore alberghiero, settore sale bar, ho lavorato subito dopo il diploma, l'aveva voluta Bello allora in via Roma, poi sono andato a lavorare a Olbia, alla una catena, una multinazionale, il Miglia, infatti si era vogliono buttare fuori in Spagna e rimani qua a lasciare, no? Non è il caso. E poi subito appena finito il diploma aveva fatto la domanda al McDonald's ed era entrato al McDonald's, ci è rimasta 10 anni, quindi non posso dire niente, assolutamente, va bene così, spero che continui ad essere così, voglio lavorare perché voglio lavorare, è molto importante. E continui a fare quello che sta facendo e farsi una famiglia per i fatti suoi. Intanto io ho già dato non posso dare altro, io sono arrivato, il mio obiettivo l'ho raggiunto anch'io, spero Gesù Cristo mi lascia governo, mi lascia, no, se ne godrà lei, se ne godrà lei, no, il mio praticamente avrà 10 anni in meno, 26 anni avrebbe avuto il mio oggi, però è andata, non è andata bene, grappa grappa, vai. Ascoltate ragazzi, se sono rose fioriranno, con i soldi, lasciamo un tempo che trova a loro anche. Certo, così bisogna lasciare il tempo, ci mancherebbe, così crescono e dopodiché anche loro faranno la loro parte come tutti del resto. Va bene, dai. Comunque vi annuncio che è rientrata mia figlia come un genero, che è farmacista, anche quello, un altro che non è né secchione di quei libri, tre laurea. Vabbè, ci sentiamo, dai, grazie per la chiacchierata, ciao Tino, ciao Claudio, salutoni a tutti e due e buona serata, io ascolto il vostro filadino e dopo chiudo. Avanti Claudio. Alla farmacia sua, qua, pure lavora in qualche farmacia qua stesso, perché mia moglie riconosce tutte le farmacie. Nella parte alta della città, verso, come si chiama, dove c'è più o meno Antonio Scarpa, in quella zona lì, la farmacia che c'è in quella zona lì, è il farmacista. Capito perfettamente, non ho lavorato in farma, quindi sicuramente lo conosco. Va bene, ciao Giulio, una buon fine serata, buon fine domenica e ci aggiorniamo, vai Tina. Va bene, ciao Giulio, ciao. Ma io mi ricordo che tu stavi facendo nel tuo laboratorio, cosa hai fatto, l'ufficio hai fatto lì? Sì, e beh, nel laboratorio che avevo io l'ho trasformato e gli ho fatto l'ufficio, perché lei sistematicamente, premesso che lavora a casa, anche no intanto, anzi principalmente lavora a casa, perché lei fa tutto, fa protezione civile, fa progettazione, fa tutte queste cose qua, no, relative all'agronomia. E però delle volte ha bisogno di fare una riunione magari con dei colleghi, con degli assessori, con dei sindaci, con dei dottori, dipende, a secondo il tipo di lavoro che deve riprendere, e allora per discuterne va nell'ufficio dove li ho preparato io, lì dove avevo la bottega io, tutto lì, ma questo ci va una volta ogni tanto, proprio in caso di necessità, quando ha bisogno di fare questo tipo di riunioni, non è che si le può portare a casa le persone, e allora va lì e basta, fanno le riunioni, parlano di lavoro eccetera eccetera, e dunque definiscono tutto lì, mi sono spiegato. Sì, ma infatti giuro, non ti ho fatto una domanda così giusto perché mi ricordavo che stavi facendo dei lavori proprio per portare avanti la sua attività. Bene. Va bene, ti saluto Giulio, un abbraccio, tante cose belle, buon fine domenica, dai, buon inizio settimana. Ok, ciao, allora di nuovo Tino, salutoni, ricambiato tutto al 100%, grazie per la chiacchierata, ci sentiamo. Grazie anche a te Claudio, ci sentiamo domani eventualmente con entrambi. Avanti Claudio, ascolto finale e poi chiudo, vai. Grazie Giulio, molto bene, ciao. Buona serata anche a te, saluto in casa, a presto di ascoltarci, dai ti. Niente, cazzeggiando su Facebook, guardando le cagate, cercando di vedere qualche cosa se mi interessa, ma lì su cosa, come si chiama, Marketplace. No, io non c'ho niente di Facebook, avevo una pagina aperta, deve essere ancora così, ma no. Non c'ho più niente da anni, solo WhatsApp e basta, non c'ho manco computer, non l'avrei regalato a Roberto il computer, della Lenovo, gli era tutto riformattato, rifatto a nuovo Luca, regalato il computer, tastiera, monitor, tutto, la webcam, tutto, avevo preso, non so quanti anni ce l'avevo, comunque nuovo nuovo, va bene, questo sta andando sempre bene, sì? Sì. Ma io non ho voluto ricomprare invece, perché il mio oramai era vecchiotto, diciamo, Windows 7, quindi sono preso Windows 10 e niente, sto provando in questi giorni. Sì, anche il mio era Windows 7, Luca l'aveva fatto per diventare Windows 10. Però per questo era un Lenovo, un buon computer anche abbastanza robusto, abbastanza grosso. Me l'ho fatto comprare proprio Luca perché io non me ne intendevo, quindi mi ero rivolto a lui e poi Roberto recidiva un computer e adesso con questa attività amatoriale che c'ha si sta organizzando tutta quella parte lì e perciò recidiva un altro computer che ho regalato io. Non problem. Sai che Luca si me l'ha fatta a Cagliari. Cioè il tram camminando in via Roma si è riempito d'acqua, è entrata l'acqua dentro a metà dei sedili, proprio da matti. Sì, l'ho visto adesso su Facebook, infatti ho detto l'acqua è fatta a Cagliari. Sì, ho visto proprio il tram con l'acqua dentro. Ma quanto più dice che sta arrivando anche qua la sua bomba d'acqua, non so. Dobbiamo tenerci un po' allerta. Ecco. Fabri Fibra, buonasera, avanti. Ciao Claudio, ciao Pino e ciao Giulio, non so se ha chiuso, che vi stava ascoltando. Ascolta, devo provare quel lineare dell'altro giorno, che non so perché, sono andato a usarlo l'altro giorno, non so cosa è successo, ho sbagliato e gli ho dato un colpo col cavo, non lo so, comunque era partito, l'ho riparato e volevo provarlo. Tutto quello che vuoi, siamo qua io e Tino. Facci vedere. Allora, così è liscio. Ciao Fabri, ciao. Ciao Tino, così gli sto dando qualche watt. Funziona. Da 9.15 passa 9.25. E allora funziona, va. E lì Tino, no, era quel a 300 che l'ho trovato su, te l'ho detto, l'ho rimesso, l'altro giorno ho capito di successo, vado a non a usarlo, ero pieno di stazionario, ho fatto caspita l'antenna, e invece era lui, non ho capito di successo, era partito tutta la parte che è città, il relay, dove c'è un transito. Stavo impazzendo, alla fine niente, l'ho messo a posto e lo volevo solo provare. Passaggio staccato, Fabri, qui sei 9:38, quale ne parti? Quello staccato. Ecco, adesso sono staccato, dovrebbe essere un 150-170 watt, 150-140, qualcosa del genere. 9:25 con picchi a 9:30. Allora va bene, è tornato a posto, dai, meno male i finali non si sono bruciati. Va bene, dai, meno male. E sta andando. Sì, ok, canale 10, passo il camion, mi compro ora qua. Buon cammino, il tuo ecco. Passo! Bello, non è brutto. Tu l'avevi sentito, Tino? Questo non l'avevo mai sentito. Questo è quello che avevo messo in cantiere 3 anni fa per modificarlo completamente. Non so se hai visto, qua abbiamo fatto, vi ho messo anche le. Se forse te le avevo mandate, le hai viste le immagini. No, non ho capito di cosa adesso parlando. Ah, è quindi finito? Sì, quel 48. Guarda che ti ho mandato, se guardi. Ci sono i due video di questo barattino qua, di questa LAN 48. Hai detto, perché poi è bello, e tu puoi fare quindi così è il mio, però puoi fare anche così, oggi basso, dove il camion. Faccio vedere, no, perché era un po' succedeva che cosa, vediamo la fine. Ma la chat l'hai messo? Adesso te le mando qua, adesso te le giro, va. Manda. No, perché quando la chat no, non l'ho vista, per la verità. Adesso te le mando. Allora, aspetta che la cerco, dai. E te le mando. Niente, e quindi aspetta che passo. No, adesso è spento, sì. Sì, si ho detto, ma no, si è spento. Aspetta che passo con l'altro. Ma è bella la modulazione, non ci sono problemi. Ottimo per la truppa. Guarda le foto, sì. Grande lavoro ha fatto, anche perché l'era 48 ci devi lavorare con molta attenzione perché c'è poco spazio, ma ha fatto un bellissimo lavoro. E l'abbiamo provato il giorno della finito, esce molto bene, un bel bene, motivazione è bella, non è di quelle fastidiose. Sì, sì, vabbè, come tutto si presta molto a fare modifiche. È che, come sta facendo Fabrizio, se devi già farlo solo vuoi tu, spendi un sacco di soldi perché i componenti costano, non è che è proprio un muratore, insomma, Roger Deep, tutte le altre cose che ha fatto, sono lei, la scheda 120 canali, insomma, costicchiamo le cose lì. E oltre al lavoro che c'è, ci sono almeno 150 euro di materiale. Poi è chiaro che li prendono così, perché inizi 150 euro di materiale, tanto 200 euro mi riguarda a me di manodopera, che ci ha lavorato un bel giorno, capite, giorni, forse settimane. Poi il costo della radio, a 350 euro, 120 euro della radio, è chiaro che le prendono 500 euro, l'hanno 48 modificati, perché c'è lavoro, c'è un bel, guardati bene, tutto il lavoro che ha fatto Fabrizio è un casino. Sì, io ti ripeto, non metto in dubbio, c'è lavoro, costano, solo se uno vuole spenderli perché è un amatore, però sinceramente 300 euro una radio così, io preferirei prendere una HF. Io so, anche io la penso come te, non pensare che la penso diversamente, però io sono caduto nel giro, una volta l'ho comprato un 948, l'avevo pagato 350 euro a me, quello l'aveva preso già, ma addirittura 400-450, però io viaggiavo, me l'avevo messo in macchina e capito, mi divertivo, soprattutto parlavo con camionisti, con tutti, perché viaggiavo a Perfugas, quindi insomma quella litorania c'era sempre camionisti, gente mi faceva compagnia, ma poi basta, cioè non assolutamente, se mi dici oggi compri un baracchino a 400 euro, ma ti dico assolutamente no, sono d'accordissimo con te. Sappiamo anche che effettivamente i componenti costano, però se c'è lavoro, no. Giusto se qualcuno vuole un flippato e un amatoriale, allora sì. Vediamo se è andato Fabrizio. Sì, voi che ho andati. Come ci sono, non ne vale la pena, a parte che sono impazzito perché ho portato poco al mondo letto, poi ci vado a far andare a scrivere canali, quindi alla fine ho visto io che avevo piacciato, avevo smontato, ricontrollato, smontato il CVC, tutto niente, alla fine era la scheda che prima che era andata, aveva sbagliato, e in fase di riassemblamento avevo fatto la saldatura che toccava e faceva casino, alla fine però non c'era la scheda, mi sono messo a controllarmela bene, mi ha detto una saldatura sbagliata c'è in questo circuito, la vai a matematica, comunque poi mi ha rimesso l'ho finito, praticamente la radio su tutto quanto volevo poter metterci, l'ho messo il frontalino con le luci blu, con display blu, diventa tutto rosso quando va in trasmissione. Poi il doppio modulatore col trasformatore, la scheda Echo con la Jurbip, la scheda 120 canali, la potenza regolabile, il parascolto che c'è il potenziometro dietro, questo lo regoli all'esterno, e poi un'altra cosa, cioè tutte le cose, furono portati i comandi e cioè il mitigante l'aveva, poi l'eco lo può regolare da fuori, quindi lo può mettere regolato dentro, come dice lì dopo conferma le ripetizioni dovrebbero essere, infatti sono regolati da fuori, il parlo ascolta lo puoi regolare da fuori, i canali lì da fuori, li fai lo squelch automatico l'ho messo. Non c'è altro da mettere, no? Oppure non ci stava più niente. Certo, se non dico tutto quello che c'era c'è un po' che ho voluto provare. Poi il coperchio l'ho fatto, sono stati bene i coperchi. Sarebbe il topoletto, se faccio ristampare il frontalino, lo compro, l'ho visto con 50 euro che hanno il frontalino, c'è questo regolatore che ti stampa tutto e ti dico come lo vuoi tu così. Ma non lo faccio fare, ti giro a telefono, niente, non lo so. Ah, e poi ovviamente gli ho cambiato il finale per aumentare un po' di watt, raddoppiare il watt. Anche quello che ho fatto. È un po' di fusuccia. Gli ho messo al posto di un finale, gli ho messo un MOSFET altrimenti ci devi lavorare per farlo lavorare bene, se no da solo gli stessi matti, invece devi dargli le correnti giuste, quindi dargli qualche bombina, qualche condensatore, qualche cosa, e va, è bellino, è una scanzata. È bello usarlo, insomma, così completo, diciamo. Vai, comunque Fabri, abbassa per appena l'amplificazione oppure parla un po' più piano, perché stai, non dico tappare, ma quasi. Ecco, mi sono allontanato un po' dal microfono, ero troppo vicino, così ho capito, lo tengo lontano il microfono, e guarda, fermo il microfono, lo tengo così e parlo così, quindi sono avvicinato come il baracchino, e mi sembra meglio. Anche più lontano, poi, ho passato l'amplificazione. Abbasso, bravo, aspetta. Gli ho detto un pelino di meno, come ti sembra? Le va meglio o passa ancora? Per me è migliorato, Claudio. No, così va bene, Fabio, lascia stare così, non è bello, per me la modulazione è mediocre, lo sai, con quelle radio lì, con quel microfono lì, a me piace sentirla bella rimbombante, no, così va bene, poco facili, troppo forte, e al limite dello strappo. Hai visto, sì? Cioè, non è un buco per girare una vite, però è venuto molto bene, e poi è molto bello come l'ha fatto, cioè c'è l'illuminazione, quando schiacci la portante diventa rosso, molto bello, però la modulazione è bella, non è di quelle flogamusi, capito? Va bene. Sì, ho visto adesso il fatto di un video, perché poi stavo facendo orecchio a cosa sta facendo Fabrizio, e per quello l'ho corretto appena la formulazione. Sì, ma lo sai che cos'è? Non è che l'ho fatta perché non me ne frega niente, non la voglio nemmeno, nel senso che sono lì, come non è che per me, cioè non... Ma l'ho fatta esclusivamente perché non riuscivo a capire tutti i recenti su YouTube, questi video, questa radio, ho fatto il centro qui, che sembravano che avevano preparato lo shuttle per andare in... sulla luna, mi hanno su apparecchi un pochettino più impegnati, è possibile che queste sembrano dei tecnici arrivati da Marte? Fammi provare un attimino, se è così complicato, ci vuole solo un po' di tempo, ma non è complicato, io penso che poi uno lo faccia ogni giorno, fa velocissimo, guarda, alla fine, veloce, ci vuole tempo, però voglio dire, abbastanza... Io la prima volta quindi devo cercarmi tutto e capire bene, però alla fine non è così complicato, quello era più che altro una sfida, per capire se questi erano geni, ma la gente lo può fare, secondo me chiunque abbia un minimo di conoscenza. Sì, vabbè, giustamente uno, ecco, allora ti faccio un esempio stupido, di un preparatore di moto, di Vespa, motore di Vespa, quando uno, di noi che eravamo ragazzini, era il nostro pezzo quotidiano preparare le Vespe, quindi le facevamo ogni giorno, se non ci andava bene, la smontavamo, le facevamo, era una cosa, una routine continua, e caspita, quelli che ci vedevano, che magari avevano un sì, dicevano cazzo, smontare il motore, quindi a casino, e per noi era normale, perché lo facevamo ogni giorno, e così suppongo che sia con la radio, quando ti metti da fare una volta, due volte, tre volte, poi ti viene praticamente quasi tutto in automatico, ecco. Sì, vabbè, io poi devo sapere, con il Vespe già mi giochi che abbastanza bene, dai. Su come già le conosco bene. E basta pensarci un pochettino su tutto, È vero. Ci vuole un tempo di attenzione, e poi vabbè, se c'è quello un pochino più perfettino, guarda tutte cose, nel senso che come hai fatto tu, che ti hai guardato le tensioni, no, questo non va bene, questo invece sì, non l'hai controllato, c'è invece magari qualcuno che piazza direttamente, non guarda le tensioni, ma poi la spacca, è così. Non è lavorarci, perché devo dimostrare che è un altro tipo di cosa, io più o meno sono andato a cercare, ho visto qualcuno che lo usava, e allora l'ho preso e via, perché c'è una aggiungo anche poi il problema che il 16 69 non si trova più, si trova anche a prezzi magari sempre bassi, ma poi li trovi apprezzati o comprare apprezzato altro prezzo, magari questo originale, arrivano tutti dalla Cina, non vanno bene, io li ho comprati e li ho provati, ho visto anche un tutorial lì proprio che li fa, e aveva una sciarada di componenti e nessuno andava bene. Il problema è anche se compri, se c'è, inizi a comprare rischi di trovare cinesserie, molte cinesserie. Comunque sul 1669, che è quello che si montava sempre, quello non si trova più. E quello è quello che usa anche il 747, se non sbaglio, vero? No, il 1669 mi sembra lo monta anche alcuni Saturn Aircall, mi sembra lo montano. Perché riesce a tirare fuori dai 10-13 watt, capito? Quello lì, però non si trova più, e quindi ti devi arrangiare con questi MOSFET che costano molto di meno alla fine anche, e ci si riesce a lavorare, però qua non si trova più. Li trovi ma non si vuole niente, ne vuole avere qualcuno qua di quelli, ma sono budrecci, sono cinesserie, capito? Andiamo qui che li prendi qua. La componentistica lo sai come fabbrici tu, che la mastichi, la conosci, ormai siamo in manavici, non è più come prima, si vede anche dalle radio, c'è una radio come questa che usiamo noi, la componentistica è completamente diversa, i componenti che c'hanno ti durano un'eternità, adesso non durano assolutamente niente, poi fabbrici, cioè diciamo la chiara. Se ti metti a fare una cosa è perché la sai fare, perché sai dove mettere le mani, perché elettronicamente sei preparato, perché ti piace, intanto hai una grande passione, però non è che tutti li possono mettersi lì a fare, cioè tu devi andare a un baracchino e dice piattami questa scheda, ecco, e allora sai dove devo mettere, non so niente, completamente tabù, perché è una cosa che io non ho mai imparato a fare, niente, quelle poche stronzate che so fare è perché le ho viste fare, ma uno è mettere veramente, fare pezzi in una radio e ricomporla e farla funzionare, è molto diverso, capito? Molta gente si mette e fa dei gerubagliardi, mentre invece io so perfettamente che quando tu ti metti a fare una cosa la fai perché la sai fare, non perché ci stai provando a farla, no, sai quello che devi fare, così. Gappa gappa, vero Tino? Come me, io lo stesso, non sono mai messo a fare questi aggiustamenti nella radio perché so che non ci riuscirei, però bene, non ho pazienza, non reggo più, non è così, e ci sono quelli che si portano e si prestano a fare altre cose e magari sono migliori di quelli che aggiustano la radio, ecco, quello tra virgolette. Lo so, però ogni giaia non esaio, io già ho avuto grazie a Fabrizio, sono riuscito, mi ha dato l'input e mi ha incoraggiato, altrimenti come voleva lui a farmela sostituire, c'è una batteria tampone che è una cosa, è una fesseria, però quando tu già vedi una batteria tampone con due filamenti collegati su un circuito stampato hai già paura, dici cazzo, non ho un saldatore di merda, non ho l'attrezzatura adatta, qua se sbaglio buco il circuito stampato, cazzo, per una batteria tira un po' brutto. Invece grazie a Fabrizio mi ha dato un input, tra l'altro una cosa molto semplice poi da fare, perché mi ha dato il portabatterie, mi pare che l'avevo anche detto, l'ho saldato piano piano, però adesso la sfidi, la batteria è un'altra cosa, cioè capisci, hai sempre quella paura di fare danno, vai a toccare qualsiasi cosa, mamma mia, no? Lui ha tutta la prestatura, conosce bene la componentistica, di etichetta, insomma, conosce, non sai che andiamo a dire, se uno le cose non le sa fare deve ammetterlo, non lo so fare, punto e basta. Io ho anche grande difficoltà a cambiare un connettore, ci ho messo 3 giorni per fare un adattatore per poter usare questo microfono sul K, capito, cioè tante cose ti... Ognuno il suo, diceva mamma, vai Fabri. Sì, ognuno il suo, vabbè, non basta solamente a pentarsi. a pensarsi. Io invece sto dando un'occhiata a Cobarcone, sto iniziando a finire lo stagno, sto guardando un attimo, non mi ricordo, non vorrei sbagliare, perché lo stagno è importantissimo, lo stesso quando vuoi lavorarci. Io di tutte le misure, da parte anche capillari, ho un millimetro che si compra, io ho questo della Keto, l'ho usato e va benissimo, una buona lega, poi questo della Keto non era buona lega addirittura, stavo guardando, ma non mi ricordo, non me l'avevo dato, ma ho pagato anche un sacco di soldi, mi pare un 88, aspetta che guardo, è un 88 98.4, era infatti una lega molto particolare che si poteva usare, utilizzavo quando facevi sondature su Santa Fedeltà, che erano sui cavi costosissimi, un metro di cavo costava anche, quel mezzo metro di cavo avevo pagato 500 euro per capirci, quindi usavo anche cavi 15, magari utilizzavo uno stagno con bassa perica.